Sentiamo una compagna da Via Ostiense, ci senti? Sì, vi sento. In pratica sì, in questo momento siamo nel cortile dove siamo stati bloccati praticamente da carabinieri e forze dell'ordine varie che praticamente vogliono identificarci, anche non avendo trovato nessuno dentro allo spazio, cioè identificare per sempre il famoso furto di energia elettrica. Hanno bisogno di una serie di nominativi a cui accollare questa assurdità. Quindi per adesso, quindi volevamo solo tranquillizzare il fatto che non è uno sgombero, dopodiché siamo qua bloccate nel cortile a conversare e a cercare di capire quando ci lasceranno, insomma, stare per stasera perlomeno. Ok, grazie. Va bene, grazie a voi. Grazie. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.